Thank you. Oh,

Yes, I am Prince Allah. Thank you. Yeah. eccoci di nuovo. Scusate un po' di caos, ma ci stanno ancora un po' di problemi tecnici riguardanti la tecnologia, ma vedo che Maurino ce la faremo. Sandrino se la cava bene. Ce la faremo. Via, stavi a ballare praticamente a mode session. Pezzoni. Stavi a dormire invece ti sei svegliato. Pezzoni uno dietro l'altro proprio. Bene, bene. Grande. Anche chi sta a casa ci sta ascoltando o ci ascolterà poi in podcast. Ok, intanto sì, diciamo un po' di un nuovo assetto nello studio, quindi avremo qualche inconveniente sicuramente. Meglio, sì, sì, comunque sicuramente è una bella situazione, sono contento, positivissimo. Bene, dai, bello, grande, proprio. Grande. E noi contenti di sentire ste chicchette direi dal vivo, poi qua la prossima volta magari montiamo un bel sub con due teste sopra per bene. La stanzetta. Quindi un altro messaggio, un bel 7 pollici. Andiamo. Ecco qua. E parte. Rudy Gal Sunday. Radio Officina. Mai fada bagna. Mai fada bagna. Mai grandmother bagna. Mai grandmother bagna. Mm-hmm. We need more love. Give us an helping hand. This time, my cha-cha time. This time, my cha-cha time. everything them do me. Oh, promised land and was bought and dissolution. But Obian to the one who brought us from Africa to here. We were treated with brutality. Thank you.

Yeah. generation to run, to run, to run, to run, to run, run, run, run, run. Thank you. dai, eccoci qua, fine dei giochi. Rudy Gal Sunday. Sì, dai, le domeniche alternative ci stanno. Ci stanno tutte. In queste noiose domeniche. Grande, bei pezzoni, siamo andati avanti a oltranza, direi, sì, per un bel po'. Ci siamo deliziati, io ho ballato, dai. Sì, sì. Ci siamo divertiti, dai. E va bene, quindi direi... prossima replay di Rudy Gal Sunday. E dai. Vediamo se, come abbiamo anche detto, porteremo un po' di gente. Magari scrivania. Qualche ospite, qualche d'uno. Sicuramente, sì, no? Sicuramente diffonderò la voce. Dai. Bene, io siamo... non mi rimane che ringraziarvi. Davvero è una casa. È una casa. Essere, e... infatti, così deve essere. Replichiamolo. E ci vediamo domenica prossima. Salutiamo tutti. Bella a tutti. Grazie. Adesso a chi ci ha ascoltato. Onde nervose. Sicuramente poi ci sarà anche il podcast della serata per chi purtroppo non l'ha potuta sentire. Sì. Il pomeriggio, lo prepariamo, lo mettiamo il prima possibile, così. Va bene. Insomma, come puntata zero. Mi darò una direi, mano anch'io, sicuramente. Ok. Dai. Bella a tutti. Bella a tutti. Bella Luca.